No, prova di metterla a due. passa a uno non mi basta, faccela a due, perché a me sul suo numero non va, ma va a due già. E però c'è due a due questa, c'è a due c'è, c'è a due a questa. Cazzo, beh, non è normale, sì, ma è bello che ho la pelle, ci sono la pelle, tutto, boh, niente. A cui usa il bomba ragione, perché mi sembra strano, che sia utile. Tutto questo lo dico sono un capo di acce. No, mi sta facendo un capo di acce, sta poverino e la lo stesso. Se non abbia preso un po' di umiltà. Piano piano si sta sfidando. Si sta un pochettino di umiltà. Se lo fa con l'umidità lo fa, perché basta un po' la fiammella. Se lo sta con fa, io faccio così, faccio io. E faccio io. Faccio io, non credo. Se qualcuno lo usa, non me la prendo io dalla raccolta, la faccio. Faccio le cifre da oggi, è per scaldarlo, sì, però... Fiamma se lo tocca, va tutto. Lo fa un po' di umidità. Va un po' di umidità, no, si sta riprendendo. Io si dovrebbe occupare il bello che brutta, no? Perché è da questo lasciare il comune, il calore un po' ci rimane, capisci? Mano a mano si avrà chiudato questo umidità. Qualche persona che sta attivando, capisci? Che sta facendo. Prima di me scolta, mi scolta, e mi scolta per finire e il tuo posto è stato tanto. Allora quando il tuo stato, il dittore, mi ha rimesso fatto sopra di nuovo, mi ha capito, e così la storia già sta funzionando. Non toccare nulla che tu trasmette la mancanza. senti che sono una ragazza di terra grissina, ragazzi, e sono tanto da fargli un bastagno. Buonasera. A te pure buonasera. Ecco. Allora, il cantone oggi sono Luca. Buonasera. Buonasera. Ma buonasera, allora, fai il servizio. Io che sto lavorando tutti i giorni. Sono male. Quest'anno. Capri, sono lì. No, perché sono un bambino che è sempre più che è sempre sentita, mamma mia, ragazzi. Ma lì, si sa quanto cazzo tu quando mi ti conosci. Ciao. Ma tu! Tanto. Tutto colpa di Luca, però Luca è lontano, ci sono le cose a Luca. Luca, ma è diviso soprattutto, vero Luca? Ma ha toccato l'allineamento, malandrano. C'ha fatto di colore di... Ma fatti di come niente, va. Sto guardando la sua mangiata. Ho fatto un bel panico con l'affettato, Giovanni. Sto per uscire. Mi sono fatto un suo mio panico, un sacchetto. E sarà sul panico, una cacciata, va bene ugualmente. Cioè, se non gli sta faccia a me, mi sa che a mangiare così. Il panico non lo so, io a cacciarsi. Ne ha mangiato, Mari, devo crescere ancora, altri due mesi. Sono esagerata, andate dritta per un metro. Ho un centimetro, due centimetri, sono più andato in mezzo. No, tu vedi, non sei preoccupato, è leggero, si sa com'è, è leggero. Chi è la storia? Qualche vicino, un cantone. È un falso nostro che si inizia a capire. Come? Non ho capito. Quando si arrancano si inizia a capire che va lì, qua si sta parlando un po' figlio. Ah, troppo forte sto arrivando. Ecco, va bene, ma ogni tanto sta arrancando magari che sta parlando un po' figlio, che non si capisce. Lo so, perché mi allontano il microfono, capito? Guarda. Vabbè, che cosa dobbiamo fare? Vai tu! Io non lo difendo questo paracchino, va! Era da molto che non l'ho usato, non tocca! Sì, la gente sta avendo cominciato, mi sta per affare in manica. Se fanno un coppio qua, ti toccati i giganti. No, ma il cibo non tocca di niente, allora. Allora, il minore magari tocca a tutti, se c'è un controllo, mi faccia tanto voi. Ma è più meglio non imboccare, perché allora mi sta capire, vai. No, ma se mi sei nascicato, se non c'è, se non c'è diventa più bambino, tocca a dito, se non c'è diventa più bambino, tocca ancora a dito. Ma tocca per far bambini, però. Senti, si tocca, si può stare tutto, Antonio. Ma io la controllo, va. Però la controlla andrà male, ma è normale, no? I bambini sono tutti così. Però che è grande la controllare, no? Sennò i bambini fanno solo le auto, capito? Ma i genitori che qualche cosa si fa, bisogna controllarli. Tutti di colore, me ne fate, tutti di colore, qua, ma si sta chiamando di morte questa protesta. E si sa quanto ci sono, stanno i minori. Cosa? Non ho capito, Giovanni. E ti sei il capo. Ma lei si sa quanto ne ha fatto su quando la resta sua. Lo so, ma io sto capendo sempre. Ma cosa vuoi che ne metta? Mamma mia, è allucinante. Adesso troppo mangiamo. E poi ci facciamo un giro. Va bene. Beh, Gio Mario, continua perché devo che su terremoto, un casino. Basta, avanti, si sentiamo, non tranquillamente, vai, ciao a tutti. Un procedimento per tutta la serata che fanno tutti. Ma sì, arrivi. Ah, signor Luca! Ehi, Freddino c'è, c'è Freddino. Sì, ehi, vabbè, là. Sta che da Valieni, ma oggi esco, fai odore, esco. Già, da te, invece, io devo rimanere. Sì, vabbè, ma tu prima esci, quando eri più giovane, ero minoretto, non esci, vabbè, esci io. Però quando sono vecchio io, non uscivo alle giovani, ero manco a casa. Andate, andate. Allora. Bene, mi state ascoltando, Gio Mario. Va bene, va bene. Quando è giunto, sto bene. La verità, no, perché no? Sto lottando. Sto qua lo smitter digitale, no? E molte volte lampeggia, non è fisso. O c'è qualcosa che non va, boh? Poi va sempre fisso, le va a fondo scala. Invece a momenti lampeggia, di uno, di una tacchetta. Ma che faccio, dei numeri? I numeri che ballano ogni tanto, infatti, non dovrebbero ballare. E la croce, non si, i numeri, ma non ballano. E altrimenti, sta stanno disfacciando. Tu mi arrivi praticamente 9:25 a picchi di 30, lampeggia l'ultimo letto. Ah, a me che la pompa fai aumentare, così è. Ma ho capito, Giovanni. Ecco, aumenta o la pompa lampeggia. Allora, tu da me arrivi 9:25 a picchi di 30, l'ultimo letto lampeggia quando parli. Oh, no. Quando il segnale non arriva, sto giusto. E io quanto ti arrivo, Luca? Dove va? 1-3, 1-3, 1-3. Ci vi potete dire, Maria, con lo scala, sì. Ma va, va. Ma normale, ma io la picco arrivando normale. Visto? Quindi, da che me è problema? Vuol dire che nessuno non va con lo scritto. No, tu sei Santiago 8, dottore. Tu arrivai più forte prima. Santiago 8 a picchi di 9. Boh, strano. E via. Arrivo un vuoto, vuoto un vuoto, papà da Carli. Stai giù, vabbè, tu, pazzo. Stai a scaldare, sta guardando, sono Luigi. No, qua sono Perù a fondo scala, vabbè che io ti chiamo, che pazzo. Per due a fondo scala. Sai, tu non sono vicino uno con l'altro, sta sopra lì. Luca lontano, siamo lì ma lontano. Ma noi siamo uno attaccato all'altro, si è chiaro che i sandali sono forti, no? Quello mi sono salvato lì. Guarda Giovanni, ti sento male Giovanni, boh. Questo ti sei troppo vicino al microfono, cosa hai detto? Ripeti, tu sei? Sei 9:30, tu sei 9:30 qua. Male mi sento. Adesso bene, ma se uno mette vicino troppo al microfono sempre tutto così, capito? Sì, ma anche tu sei a picchi di 9:30, Dio Mario. Questo hanno i vatti al massimo, 20 vatti. Senza, con 2 vatti sono io, non sono 2:30. Ah, vabbè. Ma però da qua c'è i vatti, adesso sono al massimo. Guarda, mi lascio abbasso, guarda, Guarda, adesso sono abbasso o basso. Ma sono 9:20. Tutti lo sono... c'è 2 watt a picchi di 5, a picchi di 2, 3, no? Io sono più forte di tutti là. Non sono tutti uguali, no? Fatto. A uno la vedi più forte, magari a uno la vedi più debole. Ma è così. Quello che conta la radio, capito? La radio sono le cose. Sì, è facile, è facile. E altro dice, forte, tu dici, tu da 3 vicini, senti. E allora? Come? Sta soltanto che ci sentiamo con Tore. No, Beto, Tra i tre io sono il più forte di tutti. Io lo so, ci va con tutto, va bene, mi fa bene così, mi fa bene così, così lo so. Ah sì. No, perché basta con questo, Mario. Andiamo bene, andiamo, dai, dai. Più basta sono io, ti dai di nuovo un po' con tu. No, ho capito, tu. Più forte sei tu dei tre, vedete? Poi il più forte è quello che arriva più forte di tutti, sono io, no? Guarda, a me sì, anche di tutti i letti, tutti quanti, sì. Giovanni mi sta andando un po' più in fatte. Perché Giovanni, mi ricordo che se da più, qualche avanti in più, non lo so, buon 5-10, arriva più a quando scala. Capito? Sì, dai, adesso io questa volta io vi saluto, che fa? Buona fra mia sorella. Scusami, sarà, ci vediamo su alto. Però quella che mangio lo sacco, mamma, adesso un terremoto, intanto c'è una bambina, c'è anche Alessia, c'è dai. La figlia di Michela, io poi c'ho un'altra bambina, ma lo farò giocare. Speriamo, perché prima fa più. Ehi, dai. Ciao Gio Maria, ciao Storia, alla prossima, dai, buon proseguimento, ciao. Ciao, va bene, dai, quindi ci risentiamo alle prossime, ciao Luca, ciao Antonio e ciao Gio Maria, alle prossime, arrivederci. Ciao, ci sentiamo alle prossime, ciao a tutti. Meno male che ho fatto andare il caparecchio, non perdete poco.